Cleopatra, ho capito che sei l'unico in grado di farmi entrare in un'altra dimensione.

La Sicilia è pronta a darsi. Porto le mani al cielo sin da ora. Gigi, rimminchionisci le casse con un pezzo bastardo. Tipo? Baciamo le mani. Perché i piedi non si sa mai. Quel cialtrone di Biagius. Sono Dani di Milano. Ho 31 anni e ti seguo da 10. Rispolveri Fly. Molto volentieri, ma non c'è tanta polvere lì perché io l'ascolto. Ma chi è? Stai ascoltando Il cammino di Gigi D'Agostino. Un volo unico verso nuove dimensioni. A cosa? Il cammino di Gigi D'Agostino. Sabato 2 settembre a Schio, Vicenza, discoteca Seychelles, menù del giorno, piatto unico, Gigi D'Agostino. Ci hai rotto sto quartiere. Voglio che dedichi una canzone a Mario, un benzinaio di Gallipoli. Certo. Minchia, Mario il benzinaio. Not circa 12 anni che ho perso i contatti con un caro amico. Si chiama Andrea Buonaccorso e io mi chiamo Daniele Mancuso e sono di Palermo. Sono Monica. Volevo solo dirti che ti seguo da diversi anni e ti posso garantire che la tua musica è un arcobaleno tra tante nuvole. È bella questa, eh? Sì. Sei per me il più del più. Al mio angelo e dirgli che lo amo da morire. Saluti da Barbie, dalla provincia di Chieti. Puoi mettere Angel? La voglio dedicare a Martina perché non la vedo da 7 anni. Da quando l'ho incontrata mi sono innamorato. Marti, ti amo. Luca 91. Gigi, voglio dedicare Angel a mio figlio, che ha dei giorni nascerà ed entrerà a far parte del tuo popolo. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Non c'è mai nulla di sbagliato in ciò che fai, mai. A lavorare tutti, forza. Gigi Postino, Gigi Postino, Gigi Gigi Gigi Postino, Gigi Postino. Sono Dario. Ecco. Vorrei dedicare Cammino ad Antonella, che ho conosciuto al Magica. Sei stupenda. Un saluto ai ragazzi di Bascapè. Ma ciao proprio. Vorrei dedicare Cammino a me stesso, perché nel mio cammino devo ancora trovare una persona speciale a cui dedicare le canzoni. Juan. Una storia, una più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, nel sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio, né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Sono il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che manda tra di noi e cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldatino, taratara, e cammino, cammino e corro come un bambino e sparo al destino, taratara, di là libero fino all'ultimo sorso, fino all'ultimo tiro, paleo in equilibrio, fino all'ultimo giorno, fino al prossimo giro. Non posso fare male, nemmeno un animale, nemmeno un uccellino. Ciao, sono Fofò. Scrivo da Caserta, dedico alla mia mamma che ti ascolta e a papà che non sta bene la musica che suoni. Time. Pulcinella che scrive: vorrei dedicare lo sbaglio alla mia fede e dirle che errare è umano e perdonare è divino. Sei la mia dea, ti amo. Dedico lo sbaglio a Daniela, Chicco da Pescara. Gigi, dedicami lo sbaglio perché non ti ho ascoltato prima. Spero che questo SMS lo mandi in radio. Io sono lì ad ascoltare il tuo cammino e a camminare con te. Roberto da Canicattì, provincia di Agrigento. Sono Simone da Firenze. Vorrei dedicare lo sbaglio alla ragazza più importante che ci sia per me. Ilenia per tutti, dolce stella per me. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa, qual è la soglia, per poter dire, diamo fin taglio. Chi lo sa, se darci un taglio, non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Questo groviglio. Capriccio per gli Zori di Torino che stanno seguendo il cammino. Dario e Ricky. Non giochiamo e su le mano. Nadia. Gli Zori di Torino seguono il cammino. Gli Zori di Torino seguono il cammino. L'appuntamento in discoteca con me, che sono Gigi D'Agostino, quello lì, e con la musica del cammino e tutta quella musica lì che suono io. E insomma, l'appuntamento prossimo è domani sera, sabato 2 settembre, e alle ore 21. Comincio prestissimo. Ore 21, discoteca Seychelles, a Schio, in provincia di Vicenza, mi sembra. Ci vediamo lì. We'll be right back. sono Graziana di Casal di Principe. Voglio dedicare Passo Felino a mio fratello Marco. Yeah. Caro Gigi, vorrei dedicare una canzone a tuo piacimento, ad una ragazza che mi ha cambiato e poi mi ha lasciato umiliandomi. Stefano. Stefano di sicuro non ti ha cambiato lei. Se tu sei cambiato è perché hai deciso di cambiare. È perché giorno per giorno sentivi il bisogno di cambiare. E se lei ti ha lasciato è perché tu sei cambiato. E se oggi ti senti umiliato, ti senti così perché ti stai umiliando da solo. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino sulla testa. Vorrei dedicare Picchia al mio fratellone Francesco, che oggi compie 26 anni. Federica. Federica. Oh. Mi dedichi Picchia? Tina Slav. Oh. Ginnastica mentale a mio fratello Giuseppe, perché non prova nessun interesse per lo studio. Ciliegina 96. Sono Gifu. Volevo dedicare Non giochiamo ai miei amici della curva per avvisarli che è stata rinviata la partita di stasera. Ah, cazzo. Siamo Ste e Davide di Milano. Potresti metterci una musica che pesta? A cosa? Ah, ma non c'è il punto di domanda. Siamo Ste e Davide. Potresti metterci una musica che pesta? No. Siamo Ste e Davide di Milano. Potresti metterci una musica che pesta? Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico, tic, tic, fatico. Ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Vorrei dedicare Amore vuol dire aver incontrato te

Per me, amore, vuol dire aver incontrato te. Vorrei dedicare Total Care a Hilary e Melissa, due ragazze stupende conosciute ai tuoi live. Valentino di Imola. Arrivano moltissime dediche e quindi è ovvio che qualcuna magari si perde nel percorso e non riesce quindi ad andare in onda. E io ovviamente cerco di fare il possibile per mandarle tutte. Non vanno di sicuro il giorno stesso che le mandate, quindi se la dedica mi arriva oggi è più probabile che vada in onda o domani o dopodomani o dopodomani ancora, insomma, comunque nei tre giorni successivi all'arrivo e della dedica. Era chiaro così, si è capito il concetto, cosa volevo dire. Quindi grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo e io continuerò a fare il possibile per mandare in onda tutti i vostri messaggi, i vostri commenti, i vostri pensieri. E dov'è il vocalist? Ci sono anch'io, Fai l'annuncio, lavora. Sabato 2 settembre 2006 in Veneto torna Gigi D'Agostino. Parti da lontano e guida con prudenza. Gigi D'Agostino ti aspetta a Vicenza. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. E come facevano gli antichi sciamani, alziamo tutti quelle mani. Bogacci via questo. Ciao. un po' il vocalist, per favore. Qui si fa comunicazione. Dobbiamo mandare in onda tutte le informazioni che riguardano quello che... Hai capito? Ecco. Sabato 2 settembre 2006, Seychelles, a Schio, porco zio. Ecco. Ero all'altro mondo 2 settimane fa e non c'è un giorno che non sento il tuo cammino. Sono Jessica e vorrei dedicare una canzone a Salvatore Rizzo mandandogli un bacio. Siamo Laura e Lucia e vorremmo ascoltare Again. Ti seguiamo sempre, sempre sempre. Sì. E Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Leti e Barbie, Blaschina, Stefano Di Cantù, Claudia Di Voghera. We'll be right back.